Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Confidiamo che in virtù del combinato disposto di un sistema sanitario di eccellenza e di una linea, di un indirizzo anche di politica sanitaria di massimo rigore, noi avremo nei prossimi giorni, produrremo un effetto contenitivo della diffusione del virus. Insomma, allora, a proposito di contagio da virus, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, lasciamoci contagiare dall'ottimismo e anche dalla fiducia del Presidente del Consiglio Conte, che ha detto, anche aggiunto, che l'Italia uscirà a testa alta da questa crisi da ogni punto di vista, anzi ha detto che l'emergenza ci dà maggiore determinazione per il rilancio dell'economia, che sapete, l'economia naturalmente è uno dei macro settori che più sta soffrendo, oltre naturalmente ai contagi da virus, alle infezioni o alle persone che possono morire per questo coronavirus. Ci occuperemo ovviamente per la gran parte anche di questa puntata, di questa epidemia che tiene in tensione gran parte del mondo, e con alcuni anche tagli particolari, a parte una ricostruzione qui nella sintesi della giornata, ma poi per quanto riguarda il tema della scuola, girano parecchie fake news, false notizie sul fatto che tutte le scuole d'Italia potrebbero chiudere tra poco. Non è così. Avremo la vice ministra dell'istruzione Ascani anche per capire come potrebbe funzionare la didattica a distanza, che già qualche scuola sta sperimentando, visto che nelle regioni più colpite dal virus le scuole sono chiuse e bisogna capire come fanno poi gli studenti effettivamente a continuare a fare lezioni. E c'è, gira anche la proposta che possa finire l'anno scolastico più tardi. Insomma, chiariremo proprio con la vice ministra. Poi sentiremo un altro sindaco, soprattutto il sindaco di Codogno, abbiamo sentito in questi giorni per quanto riguarda le zone rosse del contagio, i focolai del contagio, e anche il presidente della Federazione dell'Ordine dei Medici, perché si continua a parlare appunto di una certa scarsità di misure di sicurezza, di prevenzione, e anche di diversi medici che sono in quarantena, e sì, quindi c'è bisogno insomma di personale sanitario, altrimenti ovviamente le persone poi non possono essere curate. Bene, questo tanto per farvi un'introduzione come usuale all'inizio della puntata, poi avremo tutti gli approfondimenti con gli ospiti, tra poco la sintesi della giornata. Per i vostri messaggi, le vostre interazioni, lo sapete, pagina Facebook di Effetto Notte, lì potete scrivere i vostri commenti tranquillamente, oppure SMS e WhatsApp per inviare le vostre riflessioni, le vostre osservazioni al 349-238-6666, 349-238-6666. Coronavirus, casi in Toscana, Liguria e Sicilia, ma l'esperto dell'OMS invita a non drammatizzare. Il 95% dei contagiati dice guarisce. Intanto in Italia i casi positivi al virus sono 322 e sale a 11 il numero delle persone morte col coronavirus ma con fragilità pregresse. Viaggi e confini, il ministro Speranza assicura, i paesi confinanti non chiudono le frontiere ma sono diversi le nazioni che respingono gli italiani o li costringono alla quarantena. Decreto intercettazioni, via libera della Camera alla fiducia, giovedì il voto finale. Calcio Champions League, stasera Messi nel tempio di Maradona, Juventus-Inter forse domenica in chiaro alla televisione. Partiamo quindi, neanche a sottolinearlo ovviamente, dal tema che continua a essere una preoccupazione in tutto il mondo. E mentre nel mondo appunto i contagi sono arrivati a 80.000, sale a 11 il numero delle persone morte con il coronavirus in Italia. Alla lista si aggiungono 3 ultraottantenni deceduti nelle ultime ore e una donna di 76 anni morta a Treviso. Sale a 322 il numero dei contagiati nel paese, fra questi anche 3 turisti risultati positivi a Palermo ed arrivati dalla Lombardia. Primi 2 casi anche in Toscana, uno in Liguria, ad Alassio. Pure in questo caso è un turista, interdetti 2 hotel in Liguria, pronta un'ordinanza per le regioni fuori dalle aree di contagio, quarantena per chi è stato nelle zone rosse negli ultimi 14 giorni, disinfettante per le mani negli uffici pubblici e pulizia straordinaria di bus e metro. In Italia sono in totale 20 le province che registrano casi di contagio, ma i focolai di origine restano quelli di Lombardia e Veneto. Nuovi casi in altre regioni e altri stati, ma tutti comunque riconducibili alle aree a più forte contagio. Il coronavirus tocca la Toscana, la Liguria e la Sicilia per arrivare anche in Austria e Croazia. Ad Alassio ora ci sono 2 hotel interdetti, dopo che una 70enne proveniente da una delle zone rosse è risultata positiva al virus. Isolati turisti e dipendenti, controlli per tutti gli ospiti delle ultime 2 settimane degli alberghi Al Mare e Bel Sit. Aveva aveva invece soggiornato a Codogno, l'informatico ricoverato a Pistoia, ma già in autoisolamento. L'altro caso toscano è quello di un imprenditore di Firenze, rientrato da Singapore, ma a gennaio. Seguendo i viaggi di una turista bergamasca, il coronavirus sbarca poi a sud, a Palermo. Qui la comitiva della donna, ora ricoverata, è stata posta in quarantena all'hotel Mercure, da cui invece due cittadini di Mestre, quindi dell'altra regione con focolaio, sono stati fatti uscire, ma senza tampone, a quanto raccontano. Con le stesse dinamiche si registrano anche due casi in Tirolo e il primo in Croazia, dove tra l'altro due autobus passati per l'Italia sono stati fermati per controlli sanitari. All'origine di entrambi i contagi, transiti in Lombardia, come per i tre tifosi del Valencia, che dopo la partita a San Siro hanno denunciato sintomi. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E il governo, ricucito lo strappo con le regioni, si prepara ad aggiornare l'ordinanza con le misure approntate per fermare il contagio di coronavirus. Si parla di agevolare ulteriormente lo smart working, quindi lavorare da casa, uscite scolastiche sospese fino al 15 marzo. Comunque vedremo in serata se arriveranno appunto le nuove misure messe in campo. Intanto nel pomeriggio, conferenza stampa della Protezione Civile, presente anche Walter Ricciardi, ex presidente dell'Istituto Superiore di Sanità e attuale consulente dell'OMS. È molto importante che il Paese si muova unito per fronteggiare questi che sono in questo momento due focolai epidemici e che bisogna evitare che diventi un'epidemia. E le misure che sono state prese ultimamente, che in questo momento il Presidente del Consiglio con tutti i ministri stanno discutendo con le regioni, vanno nella direzione giusta. Cioè noi in questo momento abbiamo questa situazione e bisogna ricondurre, probabilmente questo nel passato, in un recente passato è in qualche modo stato sottovalutato, un'unitarietà nazionale. Perché quello che è successo è che qualche cosa si è perso nel fatto che la Costituzione attribuisce allo Stato e quindi alle strutture sanitarie centrali soltanto tre compiti, quelli della programmazione, quelli della determinazione dei livelli essenziali di assistenza e quella del finanziamento, ma tutti i meccanismi di organizzazione e di gestione vengono affidati alle regioni, contrariamente ad altri paesi che hanno un'unica linea di comando e che non è un caso che in questo momento hanno meno casi rispetto a noi. Una notizia molto importante che è arrivata poco fa è che Federlegno Arredo Eventi ha deciso, visto il perdurare dell'emergenza sanitaria, di posticipare l'edizione del Salone del Mobile di Milano a giugno, cioè dal 16 al 21 anziché ad aprile, come tradizionalmente a Milano, un grande evento internazionale. E chiaramente se diciamo le persone viaggiano meno, soprattutto dall'estero, è chiaro che è molto meglio spostarlo a giugno, quindi dal 16 al 21, ma ne parleremo poi tra poco in un approfondimento. Adesso relativamente alla scuola, migliaia gli studenti rimasti a casa per l'ordinanza sul coronavirus, ma alcuni istituti hanno fatto ugualmente lezione a distanza via web e di questo parleremo con la vice ministra dell'istruzione Anna Scani. Gli italiani possono continuare a viaggiare, lo assicura il ministro della Salute Roberto Speranza dopo il vertice con la commissaria europea alla salute Stella Kyriakides, il ministro degli esteri Di Maio e i ministri della salute di Austria, Francia, Slovenia, Svizzera, Croazia e Germania. Il primo punto mi sembra di particolare rilievo, e cioè tenere aperti i confini. Chiudere i confini sarebbe una misura disappropriata, sproporzionata e sbagliata, quindi questo è l'impegno di tutti i paesi che confinano con l'Italia. Intanto però sono diversi i paesi che hanno introdotto restrizioni nei confronti degli italiani. Giordania, Seychelles ed Iraq sono i primi paesi a vietare l'ingresso di viaggiatori provenienti dall'Italia. Stesso divieto, ma solo per quelli in arrivo da Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, è stato adottato anche a Mauritius. La Gran Bretagna ha disposto invece un autoisolamento di 14 giorni per chi è stato nei comuni più colpiti di Lombardia e Veneto, con l'obbligo di avvertire le autorità sanitarie, obbligo esteso anche a chi è stato nel nord Italia e presenta sintomi anche leggeri riconducibili al coronavirus. Forme di quarantena sono previste anche da Romania e Kazakistan, mentre in Francia gli studenti che hanno trascorso le vacanze in Lombardia o in Veneto potranno tornare a scuola solo dopo aver trascorso un periodo di autoisolamento di 14 giorni. Il Kuwait ha invece bloccato tutti i voli da e per l'Italia, così come la compagnia di bandiera bulgara, la Bulgarian Air. Controlli sanitari nei confronti dei passeggeri in arrivo con voli dall'Italia all'Italia sono stati poi disposti da una lunga lista di paesi che va dall'Argentina al Sudafrica, passando per l'Egitto e la Repubblica Ceca. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Quindi, come avete sentito, il resto d'Europa ci guarda con una certa preoccupazione, ma com'è la situazione nei principali paesi comunitari? In Francia, dove i casi conclamati al momento sono 12, con una vittima si ostenta tranquillità. Il Ministero della Salute transalpino ha reso noto che 70 strutture ospedaliere sono pronte a fornire posti letto supplementari, mentre i media riportano come Parigi sia all'11ª posizione tra i paesi meglio preparati a far fronte a un'epidemia. La Francia deve però recuperare sul fronte dei test diagnostici. Dai 400 giornalieri annuncia che amplierà la copertura a diverse migliaia. In Germania i casi sono 16, quasi tutti guariti, ma il virologo Alexander Kekulé ha lanciato l'allarme. Occorre cambiare strategia facendo il tampone non solo ai malati con contatti accertati con persone provenienti dalle zone infette, ma a tutti coloro i quali presentano infezioni alle vie respiratorie, ha detto. Il ministro della salute Spahn replica che il paese è preparato. In Gran Bretagna oltre 6.500 i tamponi effettuati con 9 contagi. Sulla base di questi dati il governo Johnson continua a considerare al momento basso il rischio coronavirus. E anche la Spagna, che ha visto ben 3 casi importati dall'Italia, afferma di essere preparata all'arrivo del virus. Giornava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed è di poco fa la notizia del primo caso di nuovo coronavirus in Algeria. Lo ha annunciato il ministro della sanità del paese africano, come riporta il sito TSA Algerie. Si tratta di un cittadino italiano. Secondo quanto reso noto dal ministro della salute, l'uomo è arrivato in Algeria il 17 febbraio scorso ed è ricoverato in isolamento all'istituto Pasteur. E poi nuovo tonfo di Wall Street, della borsa americana, con l'allarme delle autorità americane sull'arrivo anche negli Stati Uniti di un'ondata di coronavirus. Il Dow Jones perde il 3,24%, il Nasdaq cede il 2,91%, mentre lo Standard & Poor's 500 lascia sul terreno il 3,12%. E siamo alla politica italiana. L'emergenza coronavirus stempera le tensioni tra maggioranza e opposizione. Idee diverse su come andava gestita la prima emergenza, ma compattezza ritrovata ora tra maggioranza ed opposizione per approvare in tempi rapidi il decreto sul coronavirus varato dal governo. Il provvedimento sarà al voto già domani alla Camera nel tardo pomeriggio. Siamo orientati a votare a favore, conferma il capogruppo della Lega Molinari. L'emergenza coronavirus potrebbe influire intanto sulle prossime scadenze elettorali, a partire dal referendum del 29 marzo sul taglio dei parlamentari. I radicali chiedono che si voti il 31 maggio, ipotesi esclusa però al momento da Palazzo Chigi. Capitolo intercettazioni: la Camera conferma la fiducia al governo sul decreto legge, 304 i sì, 226 i contrari. Il via libera definitivo al decreto giovedì. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. All'estero, Stati Uniti, presidenziali americane 2020, Hillary Clinton, pur avendo espresso critiche contro Bernie Sanders, ha detto che sosterrà la nomina del democratico per la Casa Bianca, chiunque sia. Aspetterò e vedrò chi è il candidato, lo sosterrò e non sarà una sorpresa, dice. E intanto ai militari americani, sempre per le questioni legate al coronavirus, non è consentito di viaggiare nelle zone colpite dal coronavirus in Italia, lo afferma il generale Todd Walters, il comandante delle truppe americane in Europa, nel corso di un'audizione in Senato. Parliamo della vicenda di Zaki, lo studente egiziano che studia un master all'Università di Bologna, che sapete è stato arrestato nelle scorse settimane in un momento in cui era brevemente tornato in Egitto. 2 giorni fa Patrick George Zaki, che è stato arrestato appunto il 7 febbraio al Cairo, è stato trasferito dal centro detenzione del commissariato di polizia in un carcere di Mansura e al momento le visite familiari e legali sono state negate fino al 5 marzo. Lo scrive su Twitter Amr, amico egiziano di Patrick e attivista in prima fila per chiederne la liberazione. Dice: non abbiamo idea delle sue condizioni di salute. E poi, prima di chiudere, prima dello sport, è morto all'età di 112 anni e 355 giorni il giapponese Chitetsu Watanabe, che dal 12 febbraio scorso era diventato ufficialmente l'uomo più vecchio al mondo secondo il Guinness dei primati. A chi gli chiedeva quale fosse il segreto della sua longevità, ha spiegato: non arrabbiarsi mai e sorridere sempre. Hai capito, Dario Ricci? Allora mi devo impegnare, perché io sono invece un po' più incazzoso, detto proprio fra di noi, però, sì, però, insomma, però complimenti. Questa partita ti fa sorridere o ti fa... Sì, mi fa sorridere perché del Napoli e Barcellona. Finalmente, diciamo, proviamo un po' a alleggerire la tensione. C'è Leo Messi, nel tempio di Diego Armando Maradona, insomma, no? Questo grande incontro che unisce le due storie di Napoli e Barcellona. È stato accolto come un re. Come fosse un piccolo Maradona, le dimensioni sono quelle e anche il livello calcistico non siamo poi così lontani. Siamo al 15° di gioco al San Paolo in questa andata degli ottavi di finale, risultato ancora di 0-0, finora un buon Napoli, pensa che è la partita di esordio di Gattuso da allenatore in Champions League e avversario più prestigioso davvero non poteva trovare ringhio. Un Napoli che finora tiene bene il campo, Leo Lapulce si è fatto vedere in un'incursione qualche istante fa, un sinistro alto sulla traversa, risposto poi Mertens e bravo Ter Stegen a bloccare il tiro comunque centrale, e 0-0 anche Roberta nell'altra gara in programma stasera, dove siamo al 17° di gioco tra Chelsea e Bayern Monaco. Poi approfondiremo con Dario Ricci quando ci aggiornerà ancora sulla partita in corso del Napoli, anche la possibilità di vedere probabilmente le prossime partite che invece al nord saranno in alcune regioni a porte chiuse, ci sono Rai, Mediaset, Sky, insomma, che si stanno rendendo disponibili per trasmetterle vederle in chiaro, ma ne parleremo, ne parleremo dopo. Grazie Dario Ricci, grazie a dopo caro Dario. Ci prendiamo adesso una pausa brevissima per aggiornare invece chi si sta muovendo e tra poco cominciamo gli approfondimenti con i vari ospiti. Vi ricordo, per i vostri messaggi, commenti, pagina Facebook di Effetto Notte oppure SMS e WhatsApp al 349-238-6666. Poi c'è il Twitter della diretta di Effetto Notte durante il giorno. Se volete degli aggiornamenti, il Twitter è Roby con la Y linetta bassa Giordano. È nato un ibrido che rispetta l'ambiente e anche i tuoi risparmi. Nuove 500 e Panda Hybrid. Sedili infilato riciclato dai mari, fino al 30% in meno di emissioni, esenzione del bollo fino a 6 anni e più libertà di circolare. A un prezzo che piace a tutti. Da 10.900 euro oltre oneri finanziari anziché 12.400 euro con finanziamento B-Hybrid. Nuove 500 e Panda Hybrid. L'ibrido secondo Fiat. Fino al 29 febbraio. TAN 6,45, TAEG 9,33. Offerta FCA Bank soggetta ad approvazione. Info su fiat.it. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Subito insieme, 60 minuti come sempre ricchi ricchi di informazioni, sintesi della giornata, aggiornamenti in diretta. Vi dicevo poco fa che una delle notizie principali arrivata pochi istanti fa è che il Salone Internazionale del Mobile di Milano, grande evento appunto di portata mondiale, viene rimandato da aprile al prossimo giugno a partire dal 16. Tra poco ci saranno i nostri ospiti per approfondire i temi in primo piano che sono per lo più legati inevitabilmente al coronavirus. Volevo anche aggiornarvi su un'altra notizia della Cina che rimprovera la Corea del Sud e anche fra le varie nazioni l'Italia, dicendo che abbiamo avuto una reazione lenta. Ora, al di là di tutto, se abbiamo fatto bene, abbiamo fatto male, sembra che però abbiamo fatto piuttosto bene. Nonostante tutto, vorremmo ricordare alla Cina che in ogni caso il contagio, il virus non è partito dall'Italia. Ecco, soltanto questo. Comunque, adesso invece andiamo con gli ospiti. Noi dobbiamo lavorare tutti in questa direzione, anche ridimensionare questo grande allarme che è giusto non sottovalutare, ma porre nei giusti termini, cioè quelli di una malattia che sicuramente è da non sottovalutare, ma che sostanzialmente su 100 persone ne consente a 80 di guarire praticamente spontaneamente, a 15 di avere dei problemi seri che però possono essere gestiti in ambiente sanitario, e soltanto a 5. Peraltro voi sapete che tutte le persone decedute sono persone che avevano già, diciamo, delle gravi condizioni concomitanti di salute, che probabilmente qualsiasi infezione virale, non specificamente quella del coronavirus, avrebbe portato. Walter Ricciardi, lo avete sentito, tranquillizza, naturalmente non vanno sottovalutate le cose, non bisogna chiaramente abbassare la guardia, però ha detto l'ex presidente dell'Istituto Superiore di Sanità e attuale consulente dell'OMS che insomma nel 95% dei casi si guarisce, certo c'è un livello di mortalità ma è molto basso rispetto per esempio anche all'influenza tradizionale. Così abbiamo dato anche una risposta ai vari ascoltatori che dicono: ma non fate allarmismo, che qui mai, né a Radio 24 né particolare Effetto Notte, mai, anzi. E poi c'è addirittura un ascoltatore che dice: spegnete i riflettori, Milano deve ripartire. Sì, ma questo non significa che non si debba fare l'informazione, diritto e dovere naturalmente di informazione, di raccontare le cose come stanno. Quindi in sintesi, l'avete sentito nella parte principale, prima, cioè nella parte precedente di Effetto Notte avete sentito un quadro molto articolato dell'evolversi dell'epidemia del coronavirus. Adesso però con gli ospiti vorrei soffermarmi su alcuni aspetti in particolare. Parleremo col presidente dell'Ordine dei Medici Italiani, anche con un altro sindaco della zona, delle zone rosse, abbiamo sentito in questi giorni soprattutto il sindaco di Codogno, e però vorrei prima di tutto parlare di scuola. Sapete che varie regioni da dove sono partiti i focolai, dove c'è un certo numero anche di casi, c'è stato un blocco delle attività, di alcune attività quotidiane, e una delle misure più drastiche è stata la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per tutelare i bambini e i ragazzi, le loro famiglie, anche per evitare naturalmente il diffondersi del contagio. Però facciamo chiarezza innanzitutto, poiché tanto per cambiare girano varie fake news, appunto false notizie, e allora per fare chiarezza chiedo l'intervento della vice ministra dell'istruzione Anna Scani. Buonasera vice ministra e grazie del suo intervento. Grazie ministra. Grazie a voi. Allora, la notizia che è corsa sui social insistentemente nelle ultime ore è che saranno chiuse a breve le scuole in tutta Italia. Anche il presidente del Consiglio Conte ha smentito. Ci spieghi lei, ministra Scani, soltanto appunto nelle zone interessate dai focolai o dai casi più numerosi, no? È assolutamente falso che appunto le scuole saranno chiuse in tutta Italia, l'abbiamo detto, ha smentito il Presidente del Consiglio, ha smentito il nostro Ministero. Io credo che sia importante per tutti affidarsi soltanto alle fonti ufficiali, evitare di credere alle catene di messaggi su WhatsApp o sui social. È importante fare riferimento soltanto al sito del Ministero della Salute, del Ministero dell'Istruzione, del Governo, della Protezione Civile, perché lì ci sono tutte le informazioni necessarie. Purtroppo in questi due giorni invece sono circolate diverse fake news su questo argomento che hanno generato insomma diversa E quindi per questo cerchiamo di fare chiarezza. Ministra Scani, non la sentiamo benissimo col telefono, io intanto le faccio un'altra domanda magari mentre lo mette meglio. Allora, chiaramente abbiamo detto per le regioni più colpite dove ci sono i focolai, in Lombardia e Veneto, però ieri parlavo qui a Effetto Notte col presidente della regione Friuli Venezia Giulia Fedriga, in realtà di un'altra misura che aveva concordato col governo, cioè della quarantena per i clandestini che si trovano sul territorio della sua regione, e però diceva anche che aveva deciso la chiusura di tutte le scuole in Friuli Venezia Giulia, seppure non mi sembra al momento che ci sia nessun caso, ma pur sempre vabbè una regione di confine, ma fa pensare le Marche, no? Oggi il presidente della regione ha detto che insieme a in accordo con il governo ha deciso a sua volta di chiudere non le scuole. Credo che sia in accordo con il governo, perché sia il governo che il presidente che Borrelli, il commissario dell'emergenza, hanno detto che non condividono di fatto questa decisione. Borrelli in particolare è uscito proprio dicendolo. Io credo che per quello che riguarda le Marche appunto ci serva un supplemento di riflessione, perché questa decisione arriva dopo una riunione con i governatori che c'è stata questa mattina, che serviva a dare un indirizzo comune alle regioni che non sono interessate direttamente dai casi, e credo che quindi salti in avanti non siano particolarmente utili perché creano anche difficoltà agli altri colleghi governatori ovviamente. Quindi francamente io spero che si torni a gestire il tutto nell'ambito di un coordinamento nazionale, che è importantissimo in questo momento, perché il virus non conosce confini, non è che si ferma tra una regione e l'altra. Naturalmente noi tutti gli strumenti di contenimento li abbiamo messi in campo, servono proprio per contenere l'epidemia, ma i salti in avanti invece non sono utili. Chiarissimo. Quindi sinceramente questa decisione diciamo mi ha sicuramente sorpreso, e a livello personale non la condivido. Non vi trova d'accordo. Però ministra Scani, e per quanto riguarda gite, viaggi di istruzione, gemellaggi, per esempio c'è un ascoltatore, anzi un'ascoltatrice, Samuela, che dice: scrivo per avere la possibilità di parlare di un grosso problema delle agenzie di viaggio che lavorano con le scuole. Hanno sospeso le gite, però le scuole non hanno pagato, ma noi agenzie abbiamo anticipato tantissimi soldi, voli comprati, acconti agli hotel, ingressi, treni. Stiamo cercando di capire come intervenire appunto per fare in modo che non ci sia un danno creato da questa emergenza, per la quale noi siamo stati ovviamente costretti a sospendere gite, uscite didattiche, scambi che avrebbero provocato spostamenti di persone che di fatto noi stiamo sconsigliando. Farle con il Ministero dell'Istruzione sarebbe stato folle e sbagliato. però ci stiamo preoccupando anche di questo, il governo ha piena consapevolezza del danno di questo genere e quindi siamo attivi per capire come limitare il danno e come venire incontro a quelle agenzie che hanno sostenuto quei costi. Ministra Scari, invece per quanto riguarda la possibilità della didattica a distanza, mi sembra che già qualche scuola stia cercando, anche per esempio nel bolognese, di sperimentare, no? di utilizzare piattaforme informatiche per garantire la didattica durante le scuole chiuse. Sì, tutto dipende in realtà da quanto durerà questa sospensione ovviamente. Devo dire che molte scuole italiane sono già dotate di una piattaforma, quello che noi faremo nei prossimi giorni sarà cercare di coordinare, di mettere a disposizione di tutte le scuole questi strumenti, di fare un po' di formazione ai docenti che magari non li hanno mai utilizzato prima, perché è chiaro che qualora la sospensione dovesse protrarsi nel tempo è necessario garantire il diritto allo studio anche attraverso gli strumenti della didattica a distanza, quindi ci siamo attivati immediatamente con una task force sul tema. Devo dire che gli operatori tutti si sono mostrati totalmente disponibili a dare una mano, quindi stiamo procedendo in questa direzione, sempre sperando che non ce ne sia bisogno, cioè sperando che la sospensione delle attività didattiche possa concludersi al più presto possibile per il rientrare dell'emergenza. Ultima domanda, ministra Scani, gira la così voce di una possibile proposta di allungare, se dovesse essere più lungo il periodo di chiusura delle scuole, di allungare l'anno scolastico, quindi di finire oltre la data in realtà che sarebbe prevista a giugno? No, guardi, anche qui valuteremo, nel senso che diverse misure sono possibili, dipende sempre da quanto durerà questa sospensione, si può andare in deroga al monte ore previsto, si può prevedere un allungamento, ma è troppo presto per parlarne, perché appunto ancora misure di sospensione lunghe non sono state adottate e io sinceramente mi auguro non vengano adottate, perché lo ripeto, per noi comunque diritto alla salute è fondamentale, stiamo facendo di tutto per tutelarlo, bisogna garantire anche il diritto all'istruzione di bambini e ragazzi e quindi fare in modo che possano tornare a scuola prima possibile, ovviamente nella massima sicurezza. Bene, grazie ministra Anna Scani, buon lavoro. Grazie a voi, grazie mille, buonasera. Grazie. È particolarmente complicata e pesante, come si può facilmente immaginare, lo abbiamo anche raccontato in questi giorni, la situazione dei paesi delle cosiddette zone rosse, no? Dove ci sono i focolai, in particolare 10 comuni intorno a Lodigiano in Lombardia e Voioganeo in Veneto, quindi le difficoltà degli amministratori, dei sindaci, delle loro comunità. In questi giorni qui Effetto Notte è intervenuto più volte, la sera stessa in cui era esploso il focolaio nel Lodigiano, il sindaco di Codogno Passerini. Oggi però vorrei coinvolgere il sindaco di un altro paese che era subito in prima linea il venerdì scorso, che è il sindaco di Casal Pusterlengo, che saluto, Elia Del Miglio. Buonasera sindaco. Buonasera a tutti voi, buonasera a tutti gli ascoltatori. Allora, ho visto una sua dichiarazione oggi in cui diceva noi della zona rossa ci sentiamo abbandonati dal governo. Perché, sindaco Del Miglio? Ma noi abbiamo voluto in qualche modo sensibilizzare il governo, al di là delle appartenenze politiche che in questo momento credo che vengano in secondo piano. Noi abbiamo voluto sensibilizzare il governo perché crediamo che questo territorio abbia bisogno di risposte concrete, di un'attenzione e di un'attenzione concreta. Per cui ecco, abbiamo voluto in qualche modo sensibilizzare il governo a questo e ci aspettiamo delle risposte adeguate, non solo per il territorio, ma ovviamente per tutte quelle partite IVA, per tutti quei commercianti, per tutte quelle, per quegli imprenditori che in questo momento stanno soffrendo e che, voglio dire, ci chiedono risposte, ecco. Quindi al di là dell'aspetto, lei dice, medico-sanitario, è proprio l'attenzione al mondo produttivo della vostra zona, sindaco Del Miglio? È chiaro che c'è preoccupazione in questo, perché non ci sono al momento chiari i termini temporali. Ovviamente l'emergenza sanitaria in sé viene prima di tutto, il garantire appunto alle persone una buona salute è il primo nostro obiettivo e l'obiettivo del sistema sanitario che sta operando. Però ovviamente siamo collocati in un contesto produttivo importante, fatto di piccole e medie imprese, di commercianti, artigiani, che piccoli imprenditori che in questo momento hanno delle preoccupazioni legittime, comprensibili, e che noi amministratori comunali e locali ci sentiamo di supportare a gran voce. Sentiamo oggi che cosa le ha risposto. Ha risposto proprio a lei il presidente della regione Lombardia Fontana nella conferenza stampa insieme a molti altri temi che hanno trattato. Noi stiamo facendo di tutto per dare aiuto, supporto e far sentire la nostra presenza a tutti gli abitanti della zona rossa, perché crediamo che siano quelli che in questo momento stanno sicuramente maggiormente pagando il peso di questa situazione. Speriamo di essere riusciti a dare un riscontro positivo alle legittimissime richieste del sindaco di Casal Pusterlengo. Ha sentito, sindaco Del Miglio? Sì, no, ma fa piacere la considerazione del presidente Fontana. Di fatto, da parte nei confronti di Regione Lombardia, noi abbiamo il massimo apprezzamento per il lavoro che sta facendo, che stanno facendo il presidente Fontana, l'assessore Gallera. Venerdì eravamo insieme al tavolo dell'unità di crisi, hanno preso veramente sin da subito coscienza dell'evolversi della situazione, e devo dire che da parte di Regione Lombardia abbiamo avuto risposte serie, concrete, pragmatiche, insomma le risposte che volevamo avere. Quindi il mio appello non era nei confronti di Regione, ma era assolutamente nei confronti del governo di Roma. Ma dico, senza assolutamente polemiche, ma per cercare di portare a gran voce un grido che arriva dal territorio, arriva dalle attività produttive, insomma. Sindaco Del Miglio, lì a Casal Pusterlengo, quindi quanto ancora starete in quarantena? Di fatto ancora per più di 10 giorni. Abbiamo iniziato questo periodo di chiusura, appunto, del territorio domenica sera, e quindi ci aspettano ancora un bel po' di giorni. Come stanno andando le cose per lei, per la popolazione, la sua comunità? Finora. Ovviamente, come potrete immaginare, come potranno immaginare gli ascoltatori, è stato un fulmine a ciel sereno. Nessuno si poteva immaginare una situazione di questo tipo, che pian piano, col passare delle ore, si delineava sempre più grave. Il numero dei contagiati in qualche modo sono aumentati, purtroppo anche i decessi delle ultime ore, insomma, lo confermano. Chiaramente questo è un provvedimento talmente restrittivo che non ha precedenti nella storia della Repubblica, e quindi comprendiamo anche che in prima battuta possa essere in qualche modo mal digerito dai cittadini, però pian piano i cittadini si stanno abituando, hanno preso subito coscienza, appunto, delle restrizioni. Ovviamente hanno richiesto tutta una serie di chiarimenti, e noi come amministrazione, come comune, ma tutti gli altri enti preposti stanno cercando, e io dico lo stanno facendo bene, di rispondere a tutte le esigenze e i chiarimenti dei cittadini, e quindi contiamo che nei prossimi giorni, insomma, la situazione possa essere relativamente tranquilla. Ve lo auguriamo, tenete duro intanto, sindaco grazie. Del Miglio, grazie, buona continuazione, grazie, insomma, buona, con forza. Grazie. Diciamo che adesso è il momento di fermarci per una piccola pausa di sospensione, di respiro. Voi continuate con i vostri commenti, osservazioni, pagina Facebook di Effetto Notte, oppure SMS e WhatsApp al 349 238 6666. Poi parleremo del rinvio del Salone del Mobile, e parleremo anche col presidente dell'Ordine dei Medici. Torno ratta come la fulgore. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte, siete al posto giusto, nel momento giusto, in modo che un giorno non potrete dire: io questa non la sapevo, a proposito di una notizia importante. Anche sul coronavirus, qui potete sentire a fine giornata tutto quello che c'è di più importante, per l'appunto, da sapere. Sapete, gli aggiornamenti arrivano ogni istante, davvero è difficilissimo seguirli, ma mi sembra che il quadro finora sia stato piuttosto esauriente. E un Roberto Giordano, naturalmente sempre con voi, un evento che è, diciamo, subisce gli effetti a sua volta dell'epidemia di coronavirus, e ve lo dicevo, vi aggiornavo all'inizio, il Salone Internazionale del Mobile di Milano, che solitamente si tiene ad aprile e attira milioni di persone da tutto il mondo, non soltanto compratori ma anche curiosi, poi c'è tutto il fuori salone, insomma un evento che è diffuso per tutta la città, ma appunto Federlegno, re dei eventi, ha deciso, visto il perdurare dell'emergenza sanitaria, di posticipare l'edizione del Salone del Mobile, come vi dicevo, a giugno, dal 16 al 21. E c'è qui la nostra Giovanna Mancini del Sole. Ciao Giovanna. Ciao Roberta. Intanto ci dai la misura di questo evento per chi magari non lo conoscesse. Certo, guarda, è un evento veramente molto importante, sia ovviamente per il settore dell'arredo, che è quello che è protagonista nella fiera, sia per la città di Milano. Infatti devo dire che da residente a Milano in questi giorni, questa città già messa a dura prova comunque dalla situazione, questo rischiava di essere un po' un duro colpo, no? Perché appunto implica, guarda, la Camera di Commercio calcola in 350 milioni l'impatto dell'indotto sulla città, quindi non il business generato in fiera, ma alberghi, ristoranti, negozi, trasporti, tutto l'indotto, insomma, tutto l'indotto. In sé per sé la fiera invece per le aziende del settore vuol dire mediamente il 30% del fatturato in anno si fa in fiera. Gli imprenditori ti dicono, per noi è come la prima della scala, non si può sbagliare il salone del mobile. Quindi si parlava da tempo di un rinvio, alcuni imprenditori verrebbero, ovviamente abbiamo sentito quali sono le preoccupazioni nei confronti dell'Italia e quindi, no, tutte le misure che stanno prendendo gli altri paesi, per cui gli stessi cinesi, che sono una buona parte, no, anche del pubblico, dei compratori, dei visitatori per quanto riguarda questi grandi eventi, e quindi chiaramente non sarebbe il momento giusto. No, infatti i cinesi era già se ne parlava, diciamo, già 2 settimane fa quando l'avevano presentato, ma tutto sommato si diceva, vabbè, sono tanti, ma in fondo non sono tutti, c'è tutto il mondo, adesso il rischio è che il mondo a Milano non ci voglia venire, e quindi considera che sono investimenti molto importanti per queste aziende. Si parla di 1 milione di euro mediamente per allestire soltanto lo stand, e sono aziende piccole, medio piccole, quindi 1 milione è tanto per loro, quindi insomma deve esserci un rientro. Sì che la decisione è stata quella di posticiparlo a giugno, quindi non troppo avanti perché poi si creerebbero dei problemi di calendario, ma neanche troppo presto, insomma si spera che a giugno questa emergenza sia alle spalle, lo speriamo per tutti ovviamente e per tutto. Quindi il 16, deve partire dal 16 al 21. Sì. Che altro possiamo aggiungere? Ma insomma, guarda, secondo me una cosa trovato interessante è che assieme al presidente del salone, al presidente di Federlegno, che poi è l'associazione di categoria, c'era il sindaco Sala. Quindi quest'idea anche proprio della città, che con il suo salone si sono presentati unitariamente a dire facciamo una prova di fiducia per Milano. Bene, quindi grazie Giovanna Mancini. Allora, salta anche il salone del mobile, avete visto che ci sono stati dei problemi anche per quanto riguardava la settimana della moda, e quindi era inevitabile, era un po' nell'aria che anche questo grande evento fosse rimandato. Grazie Giovanna Mancini del Sole 24 Ore. Ciao Giovanna. Adesso vi farei sentire invece questo appuntamento che c'è tutti i giorni alle 10.45 con Nicoletta Carbone, domande e risposte sul coronavirus con la Società dei Virologi Italiani. Oggi ha chiesto Nicoletta Carbone al professor Carlo Federico Perno, ordinario di microbiologia e virologia all'Università di Milano, che dirige il Dipartimento di Medicina di Laboratorio all'Ospedale Niguarda di Milano, quali sono i punti in comune di differenza tra il virus dell'influenza e il coronavirus. Sono due virus profondamente diversi, non solo strutturalmente, ma danno patologie diverse. Innanzitutto ricordiamo che l'influenza è quella che stagionalmente ritorna all'uomo. Ricordo che l'influenza è un virus degli uccelli, sì, che arriva ogni anno all'uomo attraverso percorsi molto complessi e produce la classica influenza stagionale. Quest'anno sì, in Italia sono 6 milioni e mezzo, più o meno 6 milioni di persone infettate. I coronavirus invece normalmente sono virus umani, che infettano l'uomo normalmente, non stiamo parlando del coronavirus in oggetto, ma ricordo che nella stragrande maggioranza dei casi essi danno un raffreddore comune. Essi, insieme ai rinovirus, sono la prima causa del raffreddore che ci prende stagionalmente, che ci prende d'estate, d'inverno, eccetera, eccetera. Quindi sono con noi sempre, ma non vanno oltre il rinofaringe, cioè la zona, l'alta via respiratoria, come si dice in senso tecnico, non danno polmoniti. Questo coronavirus invece ha la capacità di scendere nell'albero respiratorio per ragioni un po' complesse che risparmio, ed è in grado di dare delle polmoniti. Da un punto di vista di circolazione, da un punto di vista di gravità, eccetera, il virus è molto diverso rispetto all'influenza. Quindi non c'è nulla in comune se non il fatto che diano una sintomatologia simile. Sono due virus diversi, con suscettibilità diversa, con ciclicità stagionale diversa. Quindi non possono e non devono essere confusi, anche per le conseguenze che danno all'uomo. Noi dobbiamo fare diagnosi di influenza perché per l'influenza abbiamo dei farmaci specifici e quindi dobbiamo sapere se una persona ha l'influenza o no. Per il coronavirus non abbiamo farmaci specifici e quindi la diagnosi è soltanto per conoscere quale sia la situazione di quel paziente. Bene, e adesso sto vedendo questo aggiornamento. La Commissione Affari Sociali della Camera ha dato il via libera all'unanimità al decreto legge sul coronavirus varato sabato scorso dal governo. Lo si apprende da fonti di maggioranza. Tutti i partiti hanno votato a favore del mandato al relatore. Il testo è passato con piccole modifiche introdotte da emendamenti del relatore, della relatrice Maria Lucia Lorefice del Movimento 5 Stelle, concordato col governo. Per ora, diciamo, è sintetica la nota, poi vedremo man mano nelle prossime ore, domani, diciamo più precisamente, più nel dettaglio, che cosa contiene. Prima di della viabilità e poi di parlare col presidente della Federazione dell'Ordine dei Medici, questo messaggio di un ascoltatore, così, che vuole un po' alleggerire, va bene, dice: fossi il curatore del Salone del Mobile, per ironizzare sul Covid-19 proporrei un concorso per chi espone lo stand migliore per una casa ergonomica per una quarantena. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. E a questo punto invece sentiamo le istanze, il parere, i commenti sulla situazione generale da parte dei medici, perché il presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici oggi ha detto in una dichiarazione, ha detto: la gestione regionale dell'emergenza coronavirus ha dimostrato di essere inefficace. Da nord a sud i colleghi lamentano tantissime situazioni, non sono stati messi nelle condizioni di lavorare in sicurezza. E sono un po' di giorni in effetti che i medici di base e medici di pronto soccorso eccetera stanno dicendo che ci sono difficoltà. Ovviamente la situazione generale è emergenziale, questo lo sappiamo, si cerca di fare di tutto, ci sono anche turni molto pesanti, misure eccezionali, però su questo allora direi di dare direttamente la parola proprio al dottor Filippo Anelli, che è presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici. Dottor Anelli, buonasera. Buonasera a voi. Allora, il fatto è che scarseggiano, dite, i dispositivi individuali di sicurezza che le regioni non sono riuscite a fornire. In che senso? Quindi spieghiamo anche quali sarebbero questi dispositivi. Diciamo innanzitutto che la gestione non è che sia inefficace, è un po' frammentata, è a macchia di leopardo, in alcune zone sì, in alcune zone no, soprattutto per quanto riguarda i dispositivi di sicurezza individuale. Questi ovviamente probabilmente anche per carente produzione, vista la grande necessità che si è venuta a determinare in un periodo di tempo così breve, non riescono ad essere forniti in maniera uniforme a tutti i medici e a tutti gli operatori sanitari. E questo ci sta creando un po' di preoccupazione. Di cosa stiamo parlando, dottor Anelli? Mi scusi, di mascherine, di guanti? Stiamo parlando di maschere, di occhiali, di camici sterili, monouso, maniche lunghe, che servono naturalmente a gestire il contatto con un probabile o con un malato di coronavirus. Ora, il tema è proprio questo, cioè è possibile che la carenza possa essere collegata anche con la produzione. Per questo noi abbiamo chiesto al presidente Conte e al ministro Speranza di fare un monitoraggio dello stato di distribuzione, di approvvigionamento, di distribuzione dei dispositivi, in modo tale da comprendere la situazione e provare ad essere efficaci nella cura dei cittadini. Ora, la preoccupazione che ci attanaglia, che ci investe, è quella che si possa depauperare il Servizio Sanitario Nazionale di professionalità importanti, ma soprattutto in termini numerici. Se i medici devono andare in quarantena, come è successo già nelle regioni in cui il virus sta provocando dei focolai, è chiaro che questo compromette l'assistenza nei confronti dei malati che ogni giorno si recano dal proprio medico di famiglia o si recano negli ospedali per ottenere le cure e le visite. Ora, se non ci sono i medici, ovviamente, se non c'è il personale sanitario, non si potranno ottenere queste cure. Di qui la necessità di separare, lì dove non ci dovessero essere sufficienti dispositivi, le malattie infettive da quelle routinarie che vengono utilizzate, da quelle che sono oggi in gestione del Servizio Sanitario Nazionale, proprio per evitare che medici vadano in contatto con questi malati e che invece la gestione di questi malati sia riservata esclusivamente a gruppi di professionisti che si occupano solo di questo. Ma dottor Anelli, lei ha delle cifre, dei numeri di medici, in particolare medici di base, ma non solo, anche medici che operano negli ospedali che sono in quarantena, più o meno a livello nazionale? Beh, in quarantena ce ne sono nelle aree in cui sono venuti a contatto con i virus. In particolare Lombardia e Veneto, certo. Lombardia e Veneto, così i numeri sono stati forniti più dalla stampa che dalle regioni, per questo chiediamo un monitoraggio della situazione. Quindi monitoraggio della situazione e dice appunto strumenti, attrezzature che possano mettere in sicurezza prima di tutto i medici, perché se non ci sono i medici non possono neanche assistere i pazienti, insomma i cittadini normali. Diciamo così. Questa è la preoccupazione maggiore, ecco. E quindi avete già fatto questa richiesta comunque al Presidente del Consiglio Conte? Sì, facciamo questa richiesta al Presidente, l'abbiamo fatta oggi con un comunicato stampa, io spero di incontrare il Ministro domani e di poterne parlare de visu proprio con lui. Bene, allora speriamo che tutto appunto sia nella direzione delle vostre richieste, dottor Filippo Anelli. Diciamo che, anche perché... che la prospettiva è buona, perché oggi sembra che abbiano trovato un'intesa il governo con i presidenti delle regioni, questo fa ben sperare che si possa avviare in un clima di grande collaborazione, di unità nazionale, una gestione che deve essere sempre più centralizzata in questo momento. Così infatti, come ha detto oggi il Presidente del Consiglio Conte, la parola chiave è la collaborazione e poi giustamente, come dice lei, dottor Anelli, l'unità nazionale. Grazie dottor Filippo Anelli, ricordo Presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici, buon lavoro allora dottor Anelli. Grazie. Grazie anche a voi. Oh, e a proposito di quello che dicevamo poco fa con la vice ministra dell'istruzione Ascani, delle Marche, che hanno deciso il presidente unilateralmente delle Marche di chiudere le scuole senza che ci sia un vero motivo, ha detto poco fa a Sky TG24: l'ultimo contatto col governo è stato col ministro Boccia, che mi annunciava il provvedimento del governo che avrebbe impugnato il mio. Ho detto che non avrei fatto un passo indietro. Insomma, vedremo come va a finire. Intanto, Dario Ricci, come prosegue la partita del Napoli-Barcellona a Napoli? Anche qua vedremo come andrà a finire, ma intanto si è messa bene per il Napoli in vantaggio alla fine del primo tempo per 1-0 grazie a uno splendido gol di Mertens. C'è stato un taglio orizzontale di Zielinski di rasoterra, Mertens al limite dell'area ha controllato e poi ha fatto partire il suo ormai celebre destro a giro battendo Ter Stegen. Un buon Napoli che poi al 42esimo ha avuto, con una girata sotto misura di Manolas su azione di calcio d'angolo, l'occasione anche per raddoppiare. Finora il Barcellona si è visto poco dalle parti di Ospina, anche lo stesso Messi che ha creato sì qualche apprensione, ma ricordo a memoria giusto una sua conclusione a inizio gara di sinistra alta sulla traversa. Quindi Napoli in vantaggio per 1-0 sul Barcellona, mentre è ancora 0-0 nell'altra sfida, anche questa all'intervallo, tra Chelsea e Bayern. Invece Dario, come dicevamo prima, per sempre per gli effetti del coronavirus, Rai, Sky, Mediaset eccetera si stanno rendendo disponibili per trasmettere le partite che andranno a porte chiuse, quelle in alcune regioni del nord Italia, in chiaro, no? In televisione. Sì, in realtà la disponibilità principale è quella di Sky, in merito a Juventus-Inter di domenica sera, il big match che si giocherà a Torino a porte chiuse. Data questa, perché Sky che detiene quei diritti, sia la Rai che ha dato disponibilità anche a trasmettere le altre gare che si disputeranno a porte chiuse, sia la stessa Mediaset si sono messi appunto a disposizione, perché chiaramente avendo ancora una maggior copertura del territorio nazionale con il loro segnale, per dare massima diffusione a questi match. Staremo a vedere, perché in questo caso, essendo una deroga alla legge Melandri che regola questa normativa, appunto serve un via libera governativo. Staremo a vedere cosa si deciderà nelle prossime ore. Da segnalare sempre in ambito sportivo e anche rispetto alle tensioni che ci sono con gli altri paesi, che dall'Irlanda è arrivata la richiesta ufficiale di non disputare la gara del 7 marzo, valida per il 6 nazioni di rugby, a Dublino però, quindi l'Irlanda sta manifestando questa volontà, staremo a vedere. Perché non vuole soprattutto noi o anche sì, le altre 5 nazioni oltre alla sesta? No, il problema noi, è soprattutto il nostro, tutti che ci chiudono le porte, col coronavirus, quindi posizione lascia un po' basiti e perplessi. Questo panico assoluto. Grazie Dario Ricci, è assolutamente inutile e ingiustificato, ci sentiamo tranquillamente alle 22.